Parte seconda, capitolo 11. Siamo tutti cinesi. Novembre 1949. Siamo davvero émigrés ora, disse Robert. Aristocratici dopo la rivoluzione francese. O russi bianchi, dissi io. Quelli che fuggirono. C'era un notevole disordine nella casa di Robert e Nora Hung a Repulse Bay. Dalla caduta di Canton nell'ottobre vi abitavano 14 amici e 5 parenti. Da un mese Nora non era stata in grado di organizzare un ricevimento come si deve, anche se i servi erano aumentati a 6. Serena, in mezzo al disordine del salotto che fungeva ormai da camera da letto, Nora stava finendo di vestire Sai Sai, il suo quarto figlio. Io sedevo sotto a un dipinto cinese ascoltando Robert che mi raccontava l'ultimo assalto alla sua casa. Avevamo portato i bambini a vedere Pinocchio e rincasando trovammo il ministro e i 9 membri della sua famiglia seduti sui gradini. Avevano avuto terribili traversie per espatriare attraverso l'Indocina. La nostra nuova sciocca ama è cantonese e non aveva capito il dialetto settentrionale del ministro, cosicché aveva chiuso a chiave il cancello rifiutandosi di lasciarli entrare. Inoltre, la sonora risata del ministro l'aveva terrorizzata. Mi ricorda i vecchi tempi della guerra giapponese, disse Nora. Camminavamo tutto il giorno e dormivamo per terra nei cortili delle fattorie in mezzo ai topi. Era una vita dura. Eppure ricordo quei giorni con vero piacere. Ancora una volta scopre mia moglie un cuore da eroina, dichiarò Robert. Per lui qualsiasi evento non faceva che confermare il suo amore per Nora. Ed ora, continuò, abbiamo ancora con noi mio cugino Sen, che ha frequentato l'università con voi e vi ricorda. È uno scienziato, intende comprare strumenti per il suo lavoro di ricerca. Una zia di Nora, Mrs. Cheng, occupa la nostra camera da letto con la figlia Eileen e la nipote Rose. Mrs. Cheng viene da Formosa e spera che suo marito possa diventarvi generale, dato che molti hanno lasciato libero il loro posto. Eileen andrà negli Stati Uniti per rimettersi dal suo divorzio e per studiare critica letteraria. Rosa è comunista e si è tagliata i capelli cortissimi. Non rivolge la parola a sua zia e ciò rende i nostri pasti piuttosto silenziosi, ma non impossibili. In fondo abbiamo tutti amici e parenti da entrambe le parti, poiché siamo tutti cinesi. Sì, siamo tutti cinesi, disse Nora. Ma dubito che potremmo ritornare ad abitare a Shanghai ora. Oh, ora siamo émigrés, ribatté Robert allegramente. Ogni rivoluzione ha i suoi émigrés. Lasciamo un po' posare la polvere per poter vedere come stanno le cose. Bisogna avere pazienza. I russi bianchi non sono più tornati in patria, dissi. Quelli di noi che sono fuggiti ora sono i cinesi bianchi. Robert, non torneranno più indietro. Evidentemente Robert trovava questa prospettiva molto spiacevole. Per un cinese l'idea di non dover tornare più in Cina è assurda. Se non da vivo, almeno da morto, ma deve ritornarci. L'ospedale delle bare di Hong Kong, un edificio di mattoni rossi spazioso e confortevole, ben diverso dall'ammasso di baracche vicine che ospitano temporaneamente 180 lebbrosi, era affollato ma di bare, accuratamente imballate e contrassegnate. In esse riposavano le ossa di molti cinesi d'oltremare, morti lontani dalla patria in attesa che la situazione politica permettesse loro di ritornare al piccolo villaggio ancestrale sperduto nell'infinita pianura gialla, laddove gli antenati li attendevano. Cambiando abilmente argomento per non irritarsi, Robert disse: «Ieri sera sono stato al Kamling Restaurant, dove si danno i grandi pranzi di affari. Mi sembrava di essere ritornato ai vecchi tempi e devo dire che i loro uomini d'affari sembrano attivi e intelligenti». Robert era orgoglioso dei suoi compatrioti. «Mr. Parrish ha partecipato a una cena in suo onore offerta da uno degli agenti che anni fa era stato suo allievo alla scuola missionaria. Sembrava molto soddisfatto, specialmente quando il suo ex allievo, prima che venisse servita la zuppa di pesce cane, lo interpellò per chiedergli se volesse recitare il Benedicite. Questo significa che, dopo tutto, i nostri insegnamenti cristiani non sono stati vani, non fece che ripetermi Mr. Parrish mentre lo riaccompagnavo a casa in macchina. E come vanno gli affari? Chiesi. Il grande momento di prosperità continua? Non si comincia forse a sentire una certa depressione a Hong Kong? I magazzini sono pieni di merce, ma gli scambi sembrano fermi. Effettivamente, col blocco dei porti cinesi non si sa dove scaricare. Non la chiamerei depressione, rispose Robert. Non è il nome esatto. No, non rende affatto l'idea. Chiamiamola piuttosto stallo. Sì, è una partita arenata in stallo, ripeté compiaciuto dal suono della parola. Tutto quello che Su Yen sa della vita commerciale di Hong Kong, disse Nora sorridendo, lo impara stando seduta nell'atrio di un albergo. Confessai che infatti quello era il mio barometro infallibile. Nel lussuoso atrio di un grande albergo del quartiere degli affari della città, avevo notato una netta diminuzione nel numero delle rumorose famiglie di Shanghai che vi si riversavano all'ora del tè dopo il cinematografo. Inoltre, i grossi uomini d'affari che facevano i loro calcoli fra un bicchiere d'arancia e l'altro mi erano sembrati meno clamorosamente fiduciosi. Era forse perché i più ricchi avevano trovato definitivo rifugio in qualche altra parte del mondo? O perché molti non avevano avuto fortuna ed erano ormai giunti alla fine dei loro risparmi? Gli inglesi occupavano sempre il primo piano. Dopo le 6:30, quando la gente per bene se n'è andata, l'atrio diventava di esclusiva proprietà di Lily Wu di Pechino, delle sue colleghe professioniste giunte da ogni parte del mondo e dei marinai americani. Due agenti di polizia militare montavano la guardia mentre le diverse nazioni facevano conoscenza fra caffè ghiacciato, whisky scozzese, whisky di segale e latte fresco. Buonasera, Han, disse una voce. Ho sentito che avete intenzione di andare a Pechino. Era Sen, un giovane tranquillo e di piacevole aspetto. Essendo stati entrambi studenti nella stessa università, mi chiamava per cognome. Conoscevo le sue sorelle e la sua famiglia. Appartenevamo allo stesso gruppo e portavamo i colori della nostra università. Ora era uno scienziato della nuova democrazia. Sì, credo che ci andrò in gennaio. Andrete nella Cina rossa? Esclamò Mrs. Cheng, comparendo improvvisamente sulla soglia, seguita da Aileen che teneva sotto al braccio una vita di Shelley. Vi fucileranno, dottor Han. La testa rotonda di Mrs. Cheng era acconciata a piccoli ricci fitti e i suoi grassi piedini sembravano scoppiare dalle minuscole scarpette scollate americane. Aileen, che era stata mia ospite alla festa della luna, sorrideva eterea. Perché mai dovrebbero fucilarmi? E mi chiedete il perché? Non siete forse vedova di un generale Kuomintang? E vostro marito non fu ucciso in battaglia dai comunisti? Sarete considerata sospetta non appena rimetterete piede in Cina? Cercheranno di convincervi delle loro dottrine, ma non si fideranno mai di voi, mai, e alla fine vi fucileranno. Oh, non sono una intellettuale, bensì una tecnica, risposi cortesemente. Non è il caso di pensare a quello che potrebbe succedermi. Voglio soltanto lavorare per la mia gente. Io non mi adatterei mai a lavorare per chi ha ucciso mio marito, disse Mrs. Cheng. Non potrei mai diventare comunista. Oh, ma nemmeno Han lo diventerà, disse Sen con la sua voce tranquilla. Sarebbe un pessimo membro del partito, soggiunse sorridendo. Ma in fondo siamo tutti cinesi. Han è un medico e il suo dovere è verso il popolo che ha bisogno di medici, il popolo cinese. Fui grata a Sen. Dopotutto avevo studiato in Inghilterra appunto per poter essere una medico in Cina. In quei tempi molti si scagliavano su amici e conoscenti, imputandoli di comunismo. La reazione automatica della maggioranza degli stranieri a Hong Kong alla parola Pechino era il pensiero rosso. Eppure un tempo quella stessa parola aveva evocato in loro visioni di palazzi imperiali e di tranquilli cortili. Ma molti, resi isterici dalla paura, vedevano comunisti dovunque e certamente in Cina. Altrettante persone erano ansiose di denunciare spie e reazionari. Purtroppo non esisteva cortina di ferro sufficiente a contenere la violenza, la stupidità e la paura, esse si infiltravano ovunque nel mondo. La mente di Mrs. Cheng razzolava nell'urridume sensazionale, mentre la nuova Amah, simile a un'estrosa cometa, piombava a intervalli dagli spazi interplanetari della cucina al sistema planetario della nostra tavola da pranzo per riempire le tazze di riso. Mrs. Cheng mangiava e parlava in continuazione. Raccontava di torture, di stupri, di pozzi avvelenati, di droghe, di bellissime spie e di atrocità. Eileen riprese a leggere la sua Vita di Shelley. Rose, la cugina comunista dai capelli corti, sbuffava violentemente con le narici dilatate. E Sen continuava a mangiare senza mai alzare gli occhi. Evidentemente Mrs. Cheng intendeva parlare a lui attraverso me. È così, concluse Mrs. Cheng, che i rossi saranno felici soltanto quando avranno ucciso 180 milioni di abitanti della Cina. Lo sanno tutti. Prendete ancora un po' di minestra, cara zia, disse Nora. Non dovete eccitarvi tanto, vi fa male alla digestione. Siamo tutti cinesi, tutti abbiamo fratelli, sorelle, cugini e amici da entrambe le parti. È triste. Tutti desideriamo il bene della nostra patria e una possibilità di vita per noi. Che state facendo a Hong Kong? Chiesi a Sen. Sto comprando e provando strumenti di ricerca scientifica, mi rispose. Vengono dagli Stati Uniti. Gli americani! Esplose Mrs. Cheng con amarezza, sorseggiando il suo tè. Perché vendono a voi? Ci danno denaro, ma non ci rispettano. Abbiamo perduto la nostra dignità e vorrei che potessimo restituire loro il denaro per riacquistarla. Il commercio è strumento di pace, disse Sen. Noi vogliamo avere rapporti commerciali con tutto il mondo. Credete forse che fra la Russia e l'America non ci siano scambi commerciali? Solo una grande guerra potrà ridare la salvezza al mondo, dichiarò amaramente Mrs. Cheng. A Formosa ci sono moltissimi nevrastenici, mi disse Sen quando Mrs. Cheng si fu alzata da tavola. È anche comprensibile con la brutta figura che hanno fatto. Ma oggi in Cina, soggiunse con una certa arroganza, non abbiamo tempo per le nevrastenie, siamo tutti troppo occupati a ricostruire il paese. Sono lieta di avervi rivisto, Sen, gli dissi. Siamo stati alla stessa università e abbiamo molti amici in comune. E sono anche lieta di vedere che vi siete adattato così bene alle nuove condizioni. È quello che voglio fare anch'io. Mi fareste piacere se veniste a pranzo con me e con un mio amico inglese, Mark Elliott. Un cambiamento avvenne in Sen, un cambiamento interiore che mutò la sua espressione, pur lasciandolo apparentemente impassibile. Le sue dita, che reggevano la pipa con la stessa leggerezza di Mark, poiché era stato 2 anni in Inghilterra per perfezionarsi dopo la laurea e ne aveva riportato l'abitudine della pipa, non si strinsero nemmeno intorno al bocchino, eppure era improvvisamente cambiato. Non lo conoscevo più. Mark Elliott, ripeté con voce perfettamente normale. Ah, sì, il giornalista, controrivoluzionario e agente dell'imperialismo. E allora, finalmente, compresi. Capitolo 12. La gabbia dello scoiattolo, dicembre 1949. Che buon profumo hai, cara, disse Mark. Sei tu oppure un miscuglio di tè Chanel? Mark, che cosa facevi in Cina nel 1937? Non ricordo. Andiamo alla nostra pietra a vedere se tutte le farfalle dormono sul sentiero degli amanti. Mark, quando ti occupavi di affari a Shanghai, non facevi parte dell'intelligence service, vero? Amor mio, che cosa stai cercando di dirmi? Mark, sei mai stato una spia? Estranei. Estranei le cui strade si erano incrociate a Hong Kong, soli nelle braccia l'uno dell'altra, seduti in una Morris verde presa a prestito davanti a un ospedale. Eravamo di ritorno da un ricevimento offerto dalla colonia inglese, un bel ricevimento. La mia limitata conoscenza delle signore di Bandage Club, con le loro tendenze educatrici e i loro discorsi sui vecchi tempi, non aveva retto nemmeno al primo round. Quella sera mi ero trovata con funzionari che parlavano con competenza di riso, di pesce e della Cina, con commercianti che parlavano di finanza, degli antichi libri e della Cina, e con alcuni divertenti missionari che non si credevano concepiti senza peccato. Parecchi erano influenti e qualcuno parlava cinese. Qua e là se ne trovavano alcuni che avevano persino amici cinesi. Sebbene nel ceto medio si giudicasse sconveniente frequentare cinesi ed euroasiatici, nelle alte sfere questo capitava a volte spontaneamente. Mark ed io eravamo usciti insieme. Non potevo tacere oltre quello che andava detto, poiché fra 3 giorni egli sarebbe partito da Hong Kong. Altri avvenimenti chiamavano il giornalista: la nuova Repubblica dell'Indonesia, i disordini nell'Indocina, la guerriglia a Malacca che durava ormai da quasi 2 anni, paesi dove gli uomini sedevano in lussuose boîte de nuit, il viso rivolto verso l'entrata, attraverso le quali, una notte o l'altra, sarebbe certo stata gettata una bomba a mano, dove i villaggi seguivano le vecchie leggi di giorno e di notte appartenevano all'ordine nuovo, dove i possidenti morivano per difendere la gomma col fucile in mano, dove il terrore usciva strisciando dalla giungla nel nome della libertà, dove i bianchi non mancavano di coraggio, ma dove c'era tanta stupidità e su tutto la paura. Mark sedeva abbandonato, apparentemente inoffensivo. Era mite e non portava armatura, non stava mai sulla difensiva, poiché non aveva nulla da difendere. Io appoggiavo il capo nel cavo del suo braccio e lo sentivo in attesa delle mie parole. Mark, non credo che potremo mai andare a Pechino insieme, mai. Amica mia, vuoi veramente conoscere il mio passato? Non mi hai mai domandato nulla, benché io ti abbia chiesto tante cose. Dovevi conoscermi meglio, ti appartengo. Non credo che tu voglia veramente avere informazioni sul mio conto. Per te sono nato il giorno in cui ti ho conosciuta. È così. Ma se vuoi sapere, e non te ne chiederò la ragione, ti dirò ogni cosa. No, non dirmi nulla, sussurrai. Non voglio sapere. Comunque sia, non potremo andare in Cina insieme. Tu lavori per un giornale imperialista, in una democrazia borghese, sei quindi un reazionario potenziale, una possibile spia. Riuscirai a entrare a Pechino soltanto se e quando il tuo governo riconoscerà la nuova Cina e verrà da essa riconosciuto. Come tutti gli uomini lungimiranti e ragionevoli, anche tu sei favorevole a tale riconoscimento, ma sei un giornalista, sempre sospetto, sempre sorvegliato, e se io avrò a che fare con te, saremo sospettati entrambi e il tuo lavoro ne risentirà. Anch'io sono nata sbagliata, potenziale reazionaria, potenziale sabotatrice della nuova Cina. Anch'io appartengo a quella borghesia che dovrà essere rieducata nella dittatura democratica del popolo. Non essendo proletaria, la mia salvezza sta nella medicina e nella povertà, ma dovrò cambiare i miei pensieri, purificare il mio cuore, rinnovare la mia anima. È come tu dici, dovrò sacrificare gran parte di me stessa, dovrò rinunciare a te. Mrs. Cheng si era limitata al sensazionalmente lurido. Speravo che le mie parole costituissero un arido riassunto, una specie di bollettino delle previsioni del tempo redatto in stile telegrafico. Freddo, affrontando la nostra catastrofe privata dietro a un lucente scudo di indifferenza, Mark strascicò: già, hai ragione, peccato, vero? Avevamo la gola stretta. Improvvisamente Mark mi parve molto più giovane. Già non dimostrava affatto la sua età, ma in quel momento il suo viso era quello di un bambino. Molti non crederanno che fra noi due non c'è altro che amore, dissi. Andranno a pensare ogni genere di cose. Vedo che le probabilità di finire di morte violenta sono di molto aumentate per te. Non possono correre rischi, Mark, e noi non dobbiamo indignarci. Questa è una rivoluzione, non un gioco di società. Sabotatori, spie e traditori dovranno essere eliminati per l'avvenire del paese, qualunque esso sia. Certo, non correranno rischi quando verrà il giorno dell'epurazione. Avrei potuto trovare il mio posto nella nuova concezione di vita e il mio passato mi sarebbe stato perdonato poiché non mi sono mai occupata di politica. Come tutti i liberali di centro ero contraria al Kuomintang e mi avrebbero anche perdonato il marito generale, ma ora ho sbagliato. Mi sono innamorata di un imperialista che per di più è anche giornalista e forse per salvarmi dovrò fare molte cose: confessare, pentirmi, rinnegare quello che ho amato, sporcare quello che c'è stato fra noi, capisci, Mark? E anche tu saresti in pericolo. Ti sei messa in un bel guaio, vero, cara? A Hong Kong Adeline Palmer Jones, commissario della morale, in Cina il commissario politico. Ti ho rovinato la vita. E io ho fatto altrettanto della tua. Credi? Mark rise brevemente, scese dall'automobile e venne ad aprirmi lo sportello. Scendi. Obbedì, egli mi prese la mano. Dove andiamo, Mark? Alla nostra pietra, forse la sola casa che avremo mai. Sedemmo sulla nostra pietra, invasi dalla disperazione, guardando le nostre ombre pallide nella notte. Paradiso perduto, mia cara, disse Mark con leggerezza. Naturalmente non poteva essere, sarei stato troppo orgoglioso e troppo felice di averti al mio fianco per sempre. Cose simili non accadono su questa terra. Dobbiamo essere abbastanza forti per continuare a sognare, cominciai, ma egli mi interruppe. Sono contento che tu abbia parlato. Da quanto tempo portavi tutto questo rinchiuso in uno dei tuoi molti io che conosco? Da circa 3 settimane. E per tutto questo tempo sulle colline, in questo autunno incantato, hai voluto risparmiarmi? Hai fatto male. Ho risparmiato me stessa. Quando ero con te, mettevo da parte il pensiero, per poi ritrovarlo quando tu non c'eri. Ho voluto assicurarmi. Già, si chiude la porta di un mondo e si apre quella di un altro, io faccio lo stesso. Non dobbiamo perdere la testa, dissi, parodiando inconsciamente Adeline Palmer Jones. Dobbiamo essere onesti e non nasconderci nulla. E bisogna anche essere pratici. È meglio conoscere la verità, non credi? Per Confucio, esclamò Mark, la verità è che io devo sposarti, non c'è altro da fare e io lo desidero terribilmente. 6 settimane fa ero turbato e anche un poco incerto. C'erano tante difficoltà di ordine pratico da superare, ma ora non ho più esitazioni. Io devo sposarti. Oh, cielo! Esclamai sconvolta. Dobbiamo proprio ritornarci sopra? Non riesco a sopportarlo, non riesco. Anche se tu venissi travolta da un autobus questa notte, non tornerei alla mia vecchia vita. Questo è orribile, pensai. Sono presa dalla mia stessa trappola. Con te non mi importerebbe di nulla, continuò Mark. Sarei felice ovunque mi mandasse il mio giornale. Senza di te mi mancherebbe ogni stimolo. Tu mi hai liberato, sei così viva che hai fatto vivere anche me. Taci, Mark, taci per l'amor del cielo. Ho agito male con te, ti incateno con la libertà. Gioco all'onore perché so che tu non sai resistere alla nobiltà dei sentimenti. È un trucco, l'illusione della libera volontà. Ero molto agitata. Per essere una donna intelligente, ti riveli a volte alquanto ingenua. Mi hai gettato un laccio, un bellissimo laccio. L'hai fatto bene e a me non importava. Non capisci che non avresti potuto comportarti diversamente? Siamo entrambi permeati da una certa dottrina, siamo cioè disonorevolmente onorabili. Tu sei troppo presuntuosa per strapparti i capelli, per fare scenate, per ricattarmi con le lacrime, con o senza onore, con o senza amore. Io ti voglio. Mark, in Cina, anche in Cina potremo stare insieme. Naturalmente dovremo superare periodi difficili, ma non dureranno in eterno. Una volta sposati, nessuno potrà più farti del male, né nel tuo paese né altrove. Io avrò cura di te. Voglio prendermi cura di te, capisci? Era cupo di collera repressa e io mi sentivo stanca, sconcertata, felice, desiderosa di credere. Sarebbe stato meraviglioso vivere in Cina, sposata a Mark. C'era qualcos'altro, qualcosa in fondo a me, ma non riuscivo a farlo affiorare. Non ti lascerò andare, disse Mark, sulla nostra pietra. Al mercato cinese degli animali, gli scoiattoli girano sempre in tondo nelle loro gabbiette, muovendo una piccola ruota eterna, un pernio di filo lucente, con sguardo intento e impassibile. Sotto il moto perpetuo delle loro zampette, la ruota sparisce, non è più che un invisibile frullio di aria lucente che gli scoiattoli mantengono eternamente in movimento. Anche i nostri pensieri giravano in tondo. Caduto il momento di esaltazione, indugiammo per 3 giorni in un mondo di difficoltà pratiche, prendendo in considerazione ogni vicolo cieco, duri e spietati. Potremmo andare in India. Laggiù potresti essere la mia amante. Ma non posso sopportarne l'idea. Non posso andare altro che in Cina. Non ho passaporto per passare da Hong Kong alla Cina. Il mio è scaduto in febbraio. poco dopo il mio arrivo dall'Inghilterra. Ora non mi è possibile ottenerne un altro se non illegalmente ed è molto più costoso. Pas de papier, disse Mark. Marta Monk direbbe che io cerco di farmi sposare da te per i tuoi papier, Mark. Alcune cinesi lo fanno in questi tempi difficili, ridemmo. Naturalmente potrei rinunciare a te. Naturalmente. Non aggiungemmo altro. Non posso andarmene così, di punto in bianco. Sarebbe una vigliaccheria, dovrei convincere gli altri. Certo, non possiamo fuggire, ma se mai tu avessi il minimo dubbio, non dovrai risparmiarmi. E nemmeno tu. Non potrei perdonartelo. Senza posa giravamo la ruota invisibile. Non scriverò finché non avrò trovato qualcosa di definitivo. È troppo facile evadere nel sogno di te. Io non scriverò affatto. In quei 3 giorni Mark si rosicchiò terribilmente le unghie. Il mio stomaco si rifiutava di funzionare e non riuscivo a mangiare. Ci guardavamo. E io pensavo, se egli fosse pazzo o lebbroso, non me ne importerebbe affatto. Sempre in tondo, calpestando il cerchio dei nostri pensieri. Che devo fare delle tue lettere? Credo di non saper resistere alla tentazione di rileggerle. Sarebbe troppo facile, le butterò in mare. Se lo fai, non dimenticare di legarle con una pietra, Mark. Potrebbero rimanere a galla. Lo credi? Sempre nel circolo vizioso. I bambini, mi sono sempre molto interessato di loro, ma ormai non mi vedono spesso. Non so se per i bambini sia meglio un matrimonio infelice o un divorzio soddisfacente. Tu che ne pensi? Il divorzio è sempre doloroso sulle prime. La dignità offesa fa male. La ruota girava, sempre. Non voglio passare da una donna qualsiasi all'altra, non voglio nemmeno ricordare le brevi avventure a buon mercato che ho avuto. Quando ti ho incontrata, stavo andando alla deriva. Ah, non andrai alla deriva, non sapevo cosa fosse l'amore io, prima di incontrarti. Forse potremmo aspettare, i bambini crescono presto. Certo, ti aspetterei anche 10 anni. Anch'io, ma dobbiamo avere una sicurezza. Devo essere certo di poterti avere fra 10 anni. E così via. Intenti, impassibili, scoiattoli in gabbia. Andrai in Cina il mese venturo? Non so. Sono tanto confusa. Non potresti aspettare il mio ritorno? Non starò via molto, 3 mesi circa. Ma devi andare se lo desideri. Ti aspetterò. Mi troverò un altro impiego, ho molti amici e non mi sarà difficile arrangiarmi. E così Mark partì e tutto ricominciò di nuovo. E sebbene leggessi poesie umoristiche, il sapere che egli soffriva mi faceva star male. E sebbene egli lavorasse come sempre, io ero sempre nel suo pensiero. Ma non fuggimmo insieme. Sarebbe stato troppo facile. La ruota girava.